anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan, anche quelli di Roma, di Napoli, e me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti, tra qualche secondo, cari ascoltatori. Forza che è venerdì, caro Peter, si chiude tra l'altro la 185esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E andiamo. E allora la 186esima forse porterà buone notizie, vedremo. Vedremo. Intanto siamo qui nello spazio dedicato alla lettura dei quotidiani di 24 mattino. È la rassegna stampa che può cominciare. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Alle 7:19, eccoci qui con i titoli. Venerdì, per la precisione, 18 novembre, con i titoli e l'apertura dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre sui tassi BTP che salgono al 2,1%. Lo spread oltre quota 180. Anche per l'economia e il Corriere della Sera, con la Fed alla sfida con Trump. Questo è il titolo di prima pagina. Poi oggi è l'ultimo giorno in cui si possono pubblicare i sondaggi per il referendum, e quindi non c'è giornale che non abbia il proprio sondaggio. Referendum, il no avanza, è il titolo di Repubblica in prima pagina, così la stampa. Referendum, il no avanti di 8 punti. Mentre per il Fatto Quotidiano la vicenda De Luca, il boss De Luca, Bindi va uccisa, io voglio i soldi, me ne fotto del sì. Il Giornale invece, la Boschi ricatta, se non mi voti ti tolgo 80 euro. Il Messaggero, avanti il no, partita aperta. Come vedete, molti aprono sul referendum o sull'aspetto politico o sui sondaggi. Avvenire invece a un'intervista di 4 pagine al Papa. Giubileo ed ecumenismo sono frutti del concilio, il titolo di prima pagina con la foto di Papa Francesco, misericordia e unità. Mentre l'apertura del giorno, tassi americani, Italia a rischio. Vedremo altre aperture durante la rassegna stampa. Una, per esempio, subito è l'Unità, mette la vicenda di Aleppo, strage di migranti e bombe su Aleppo. Sono due aspetti. Strage di migranti non sono più notizie, per questo ne parliamo, anche le bombe su Aleppo. Effettivamente sembra quasi la normalità la guerra in Siria e il fatto che muoiano ancora persone per cercare di attraversare il Mediterraneo. Lo mette in prima pagina l'Unità, lo mette a pagina 5 il Manifesto, l'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia. Ci sono 7 morti, ma si contano 100 dispersi. Era un'imbarcazione con a bordo 130 migranti partita dalla Libia, 27 i sopravvissuti. C'è la cronaca sul Manifesto. Ci sono i numeri. Repubblica racconta, lo faceva il Sole 24 Ore settimana scorsa con Vladimiro Polchi, che a metà novembre è stato superato il picco del 2014. A fine anno si prevedono circa 200.000 migranti sbarcati in Italia. Ed è un record, mai così tanti sbarcati già in 170.000, un numero shock che gira tra i corridoi del Ministero dell'Interno. 170.000 sono i migranti sbarcati quest'anno sulle nostre coste. E ovviamente c'è sempre il problema dell'accoglienza. Ora, il Fatto Quotidiano racconta una vicenda che avviene in Sardegna, che è molto particolare. Ricordate la rivolta di Goro, provincia di Ferrara, dove gli abitanti sono scesi in piazza a dire: i migranti qui non li vogliamo. Ebbene, in Sardegna, a Buddusò, c'è il sospetto che abbiano fatto in un modo un po' più pratico, brutalmente pratico. Arrivano 50 stranieri e scoppia una bomba nell'agriturismo che doveva accoglierli. Francesca Petretto racconta sul Fatto questa vicenda da Buddusò. Sono a pagina 20. Nella notte tra mercoledì e giovedì un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere all'interno dell'agriturismo che, secondo una nota della prefettura di Sassari, avrebbe dovuto ospitare 50 migranti. Siamo nel centro-nord della Sardegna, nella regione del Monte Acuto, dove a 750 metri sul livello del mare sorge il paesino di Buddusò, piccolo centro di 4.000 abitanti. Il sindaco Giovanni Antonio Satta aveva convocato mercoledì in seduta aperta in sessione straordinaria il Consiglio Comunale. La prefettura aveva detto: i migranti devono essere messi in una struttura che è stata individuata. la stessa notte è stata sventrata questa struttura da un ordigno. L'agriturismo Le Querce, locale in disuso da qualche anno di proprietà di Antonio Zoroddu, è esplosa. Ovviamente potete immaginare, come dire, la incredibile coincidenza dei due fatti, cioè la decisione della prefettura di metterli lì e l'esplosione. La tensione c'è, e questo è il segno, proprio un segno piccolo da un paese piccolo, di un paese grande, l'Italia, che veramente non sa gestire questa situazione. Oh, invece torniamo a parlare di scuola, lo faremo tra l'altro credo anche lunedì, approfondiremo, perché questa storia delle classifiche, le scuole migliori, le scuole peggiori, dopo la classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli, ora c'è, secondo il Messaggero, Lorena Lo Iacono lo racconta a pagina 15, anche una sorta di, oddio, classifica non si può dire perché sennò poi dicono che non è una classifica, un rapporto di autovalutazione della scuola, il RAV. Rapporto di autovalutazione del Ministero. Però vedete anche qua il Messaggero. La classifica del Ministero basata sui risultati ottenuti all'università, cioè si analizzano gli studenti delle secondarie e che tipo di successo hanno poi nella storia loro universitaria, quanti sono gli immatricolati, quanti sono quelli che poi si laureano, per dare, andando indietro, una sorta di premio ai licei che hanno formato i migliori studenti che poi hanno fatto il percorso universitario. I licei migliori d'Italia sono anche in periferia e potete trovare questa classifica sul Messaggero, basata sui risultati ottenuti dagli studenti poi all'università. Il sito è Scuola in Chiaro, che serve a guidare le scelte dei ragazzi che si iscrivono alle superiori. Non a caso escono le classifiche ora, perché bisogna orientare appunto quelli che escono dalle medie per l'anno prossimo, cominciare a capire a quale liceo, a quale scuola superiore mandare i nostri studenti. A proposito di scuola, invece, questa è una storia davvero che mi fa arrabbiare a dir poco. Non è il premio Mani sul volante, ma succede in una scuola elementare di Roma, lo racconta Corrado Zunino a pagina 22 di Repubblica. 18 supplenti in 11 mesi. Succede alla scuola elementare Contardo Ferrini, Roma Nomentana, media borghesia, 29 classi. L'anno scorso, dopo 12 supplenti di matematica cambiate ogni 10 giorni, denunciano i genitori, i bambini erano arrivati in seconda elementare a contare a malapena fino a 50. Non oltre, nient'altro. E cosa vuoi fare a bambini in seconda elementare se ogni 10 giorni cambia un supplente? Quest'anno la terza B, li hanno promossi tutti, visto le lacune, non potevano fare nient'altro. Con l'aiuto della maestra italiana si sono spinti a contare fino a 100 in terza elementare, provando a usare le prime addizioni, 2 più 3. Senza riporto, per carità, senza riporto, mica quelle che devi fare 7 più 6, 3, riporto 1, no, per carità. Esercizi alla lavagna a singhiozzo, io la butto sul ridere, ma c'è veramente da piangere, eh? Apprendi e disapprendi, riparti e fermati, le supplenze, i tamponamenti nel senso di coprire le falle, le apparizioni di docenti temporanei o potenziati, sono già state 6 anche quest'anno, e 6 le sparizioni. Verrebbe da dire, ma che succede in quella scuola? È un caso limite, certo, ma all'elementare Ferrini non si riesce a trovare una maestra di matematica che stia più di 10 giorni. Nelle ore di buco i bambini finiscono anche nei corridoi e ora i genitori ovviamente si lamentano, e forse si lamentano da un pezzo, la vicenda finisce ora sui giornali, ma chiaramente è una situazione assurda. Come una situazione assurda è quella dei classici furbetti della legge 104. Ce ne sono. Ogni tanto viene fuori una vicenda di coloro che usufruiscono di questa legge sacrosanta, cioè una legge nata per aiutare le persone che sono in difficoltà ad essere aiutate a loro volta da familiari che hanno diritto a 3 giorni di permessi al mese dal lavoro per assistere appunto le persone malate. Ma che succede? Succede che molto spesso i furbetti della legge 104 sono quelli che dicono: usufruisco della legge 104 per assistere il padre malato, la mamma che non ce la fa, il figlio, la figlia, e poi vanno a fare tutt'altro. Costano, e anzi sarebbe meglio da dire, come dice il titolo del giornale, rubano 200 milioni l'anno. Questo è l'articolo davvero che mi fa pizzare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Eccolo qui, Nino Materi, in permesso malattia per assistere a Potenza, un parente gravemente invalido è stato beccato a fare l'attore porno a Miami. È un agente forestale che davanti al giudice che lo ha sospeso dal servizio, servizio di agente forestale, non da film porno ovviamente, ha detto: il film è stato registrato a mia insaputa, non sapevo che fosse una porno star. Non lo so, forse c'erano anche le telecamere, ma non era tutto, vabbè, insomma, signor giudice, ecco. E c'è anche questo caso limite, ma c'è chi dice di stare al capezzale della sorella moribonda e vende cosmetici, chi giura di badare alla mamma invalida e partecipa al torneo di bocce, chi assicura di curare il padre inchiodato sulla carrozzina e segue il corso di cucina cinese, tutte attività svolte in orario d'ufficio grazie alla legge 104 pagati da noi. La cifra del giornale: rubano 200 milioni di euro l'anno. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! Alessandro Milan, il nuovo allenatore dell'Inter, dell'informazione. Tanto fare l'allenatore dell'Inter è una cosa che prima o poi toccherà a tutti. Sì, certo, non parliamo dell'Inter fino a domenica. Non parliamo di quel che... Chi? Va bene, allora, oggi aprendo i giornali ho vissuto un momento un po' di sgomento che mi è passato subito al... ottavo giornale in cui mi sono ritrovato un sondaggio sui risultati possibili del referendum del 4 dicembre e mi sono ritrovato come quando Fantozzi trovò tonnellate di pane in cucina e venne colto dal leggerissimo dubbio che la Pina lo stesse tradendo col panettiere. Ho detto: ma perché lo tra... perché? E poi ho scoperto: oggi è l'ultimo giorno in cui i giornali possono pubblicare i sondaggi e quindi non c'è giornale che manchi del proprio sondaggio sul referendum. Al momento tutti i sondaggi dicono che il no è in testa, però guardate qui, non so, Nando Pagnoncelli, pagina 2 del Corriere della Sera, il no è in testa ma il 13% è ancora incerto, quindi il no è in testa ma appare netto se si votasse oggi 55-45, però c'è un 13% di incerti e tra l'altro, dice Nando Pagnoncelli, un elettore su due non andrà a votare, quindi ci sarà un astensionismo del 50% o una partecipazione del 50% più o meno, come la volete vedere. Ilvo Diamanti, pagina 2 di Repubblica, l'avanzata del no è in testa di 7 punti, secondo Repubblica è indeciso un italiano su 4. E tra l'altro Repubblica si spinge oltre dicendo che l'attivismo del Premier non inverte la tendenza. L'instancabile attivismo del Premier nel corso delle ultime due settimane non sembra aver prodotto effetti apprezzabili se misurati con il metro del consenso popolare. Al contrario, l'esecutivo e il suo capo arretrano di qualche punto rispetto a ottobre nel giudizio dei cittadini. Questo raccontano Roberto Biorcio e Fabio Bordignon a pagina 3 di Repubblica nel commentare il sondaggio di Ilvo Diamanti. Per il Fatto Quotidiano, sondaggio GPF condotto per il Fatto, il no avanti di 6 punti. Ma c'è questa ampia fetta ancora di indecisi che sicuramente potrebbero essere importanti da qui al 4 dicembre. Ecco La Stampa, l'ho capito qui, ultimo giorno di sondaggi, ecco qui ho capito, il no ancora avanti di 8 punti per La Stampa, Nicola Piepoli racconta il no 8 punti, quindi diciamo che quasi tutti i sondaggi danno il no in vantaggio con una forbice tra gli 8 e anche chi si spinge a 10 punti. Questa è la situazione, da questo momento sondaggi non verranno pubblicati più sui giornali, ma oggi ne avrete una scorpacciata ovunque. Il giornale accusa invece con il titolo di prima pagina anche a dire: il prezzo della Costituzione per la Boschi vale 80 euro. La Boschi ricatta, se non mi voti ti tolgo 80 euro. Questo è come la vede il giornale, cioè la minaccia del ministro che, andando a porta ha detto: se andranno al governo loro, c'erano dall'altra parte Matteo Salvini e Anna Maria Bernini, toglieranno gli 80 euro le cose buone che abbiamo fatto noi. provocando ovviamente la reazione degli ospiti di parte avversa. E il giornale con Giuseppe Marino racconta, anche con un editoriale di prima pagina per la verità del suo direttore Alessandro Sallusti, abbiamo avuto la prova riprovata e la prova provata che questi 80 euro hanno una valenza elettorale. Questa almeno è l'accusa di Alessandro Sallusti in prima pagina del giornale. Renzi pensa già, ed è la seconda volta che lo dice in due giorni, a eventualmente il dopo, nel senso che dovesse vincere il no, se vince il no, come racconta Maria Teresa Meli a pagina 5 del Corriere della Sera, Matteo Renzi si dimette. Non solo il premier non consentirà la nascita di un governicchio purché sia, così è stato definito, solo per tirare a campare fino al 2018. Renzi e il dopo, in tre mesi si fa la legge elettorale. Dalla Sardegna il premier cerca di fugare dubbi ed equivoci, spiega ai collaboratori: per quanto mi riguarda non farò mai un governo solo per restare a galleggiare. È probabile che mi chiedano di restare perché non ci sono alternative, ma io non rimango a farmi logorare e condizionare. Se si vuol fare la legge elettorale per andare al voto, la si può fare in tre mesi, ma se la si vuole utilizzare come scusa per tirare per le lunghe, se lo scordino, si va alle elezioni. Ci vuole chiarezza, basta coi giochini della vecchia politica. Questo è quello che Renzi, secondo Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, dice ai propri collaboratori, e dunque è la posizione in questo retroscena del Presidente del Consiglio. Mai un governo tecnico, questa è la posizione di Renzi. Oh, la politica poi si interroga sul caso De Luca. Questa intervista che De Luca dice è stata estorta, nel senso che l'intervista era finita e i giornalisti e la troupe di Matrix stavano togliendo i cavalletti delle telecamere, stavano spegnendo tutto, però dato di fatto che è storta o non è storta, queste cose lui l'ha dette, e cioè ancora si è concentrato nei confronti di Rosy Bindi. Ha visto un video che il giornalista inviato di Matrix gli ha fatto vedere su Sgarbi, che parlava di Trump e prendeva anche in giro la Bindi. De Luca ha iniziato a ridere e si è lasciato andare a questa dichiarazione quando la Bindi definì impresentabile De Luca poco prima delle elezioni. Ricordando quell'episodio, De Luca dice: la Bindi ha fatto una cosa infame quando mi ha messo tra gli impresentabili, da ucciderla. Eccolo qui, il titolo è guadagnato ovunque. La Bindi è da uccidere, De Luca shock su Bindi per il Corriere della Sera, il PD lo isola, infame da ucciderla, poi prova a chiarire. De Luca frase shock, la Bindi da ucciderla, bufera sul governatore. Alessandra Longo su Repubblica ricorda a pagina 8 che il tono, e noi l'abbiamo fatto sentire, l'ho fatto sentire prima alle 6:30, a me piace anche quando De Luca no spara zero su tutti, magari sparerà zero un giorno anche su di me, va bene, è il suo modo di fare. Ma Alessandra Longo ricorda un po' tutti i modi di tutti gli epiteti anche nei confronti degli avversari. Ci sarà un motivo se lo chiamano Pol Pot, uno che non perdona, uno che decide tutto da solo, uno che da sindaco si identificava con la città come fosse roba sua. Io sono Salerno, disse una volta, l'urna con le mie ceneri le voglio in Piazza della Libertà. Uno che da presidente della regione continua a insultare gli avversari, sfessati, sfrantumati, cafoni, somari, animali. Crozza lo ha reso popolare, il che non significa gradito oltre i confini del suo impero. Lui, figlio di un salumiere di una casalinga, nato nel 49, sponsor della rottamazione, del decisionismo, populista, padre padrone, il nuovo sindaco pare non si azzardi a varcare la lussuosa stanza di rappresentanza in uso del predecessore, cioè De Luca, anche se tutto ciò è stato smentito dallo stesso De Luca. È pur vero che la cosa è stata debolmente smentita, ma Pol Pot tiene tutto in riga, o con me o contro di me. E ogni settimana dilaga con stile sovietico dall'emittente televisiva Lira TV con lunghi monologhi senza contraddittorio. Beh, sono monologhi tra l'altro straordinari che noi mandiamo in onda sempre qui nel Parlamento alle 6:30. Però questo è De Luca. Tra l'altro il Fatto Quotidiano, salto sul Fatto Quotidiano, oggi ha l'apertura su De Luca e ha il racconto di una riunione che De Luca ha fatto con sindaci, esordendo così: non ci sono giornalisti e possiamo parlare tra di noi, e tutto finisce infatti a pagina 2 del Fatto Quotidiano, qualcuno ha spifferato. De Luca avrebbe detto in questa riunione: in questo momento abbiamo un'interlocuzione privilegiata col governo, poi vi piace Renzi, non vi piace Renzi, a me non me ne fotte un cazzo. Applauso dei presenti. Non abbiamo mai avuto un accidente di niente, né col centrodestra né col centrosinistra. Abbiamo fatto una chiacchierata con Renzi, gli abbiamo chiesto 270 milioni per Bagnoli e ce li ha dati, altri 50 e ce li ha dati, mezzo miliardo per la Terra dei Fuochi, ha detto sì, era terrorizzato per la reazione della Lega, ma alla fine ce li ha dati. Insomma, secondo questa riunione De Luca sintetizza il fatto: qui arriverà un fiume di soldi, come dire, non mi interessa nulla, vi piaccia o no Renzi, in maniera colorita, forse alla De Luca se l'ha detto, votate sì, perché qua arrivano i soldi. Oh, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri. Mauro Meazza, buongiorno, auguri per il felice weekend, augurissimi, augurissimi. Ma buongiorno, buongiorno. Ricambio con altrettanto affetto, anzi se possibile anche di più, perché sento proprio l'affetto nelle tue parole, quindi tanti cari auguri anche a te. Finirà 2-1, finirà 2-1. Va bene, senti, al di là del pronostico vorrei segnalarti qualcosa di più serio. Ad esempio vorrei che invitarti a meditare sulla pagina 3 di oggi del Sole 24 Ore, perché sta tornando lo spread. Te lo ricordi lo spread, caro Alessandro? Lo spread del 2011, ecco, c'è stato un po' una fiammatina, si è rialzato. Comunque leggi Vito Lops sull'andamento appunto dei titoli di Stato, non solo quelli italiani ma anche quelli statunitensi, e vedi un po', ecco, lo spread è salito sopra i 180 punti, lo diciamo già in prima pagina, quindi puoi meditare, beh, naturalmente anche tutti i nostri lettori possono meditare sulla previsione di Vito Lops. Perché previsione? Perché appunto tutto si lega al probabile, ormai probabilissimo aumento dei tassi da parte della Fed, della Federal Reserve. Va bene, questo naturalmente per rinnovarti gli auguri, però ti voglio dire che forse hai trovato il modo di investire i tuoi 2 eurini. Perché nelle pagine di Finanza, che tu leggerai avidamente, bravissimo, avidamente, si segnala tra l'altro che il Milan potrebbe emettere presto un bond. È un'emissione da 200 e passa milioni, mica spiccioli, quindi potresti sottoscrivere con i tuoi 2 eurini più altre cose. Intanto auguri all'Inter, tanti auguri, no, auguri al Milan anche per questa operazione. Poi sai che oramai incombe il closing, no? Questo è presente il closing? Un colpo di tosse. No, incombe, ormai è sicuro che a dicembre con il rialzo dei tassi della Fed ci sarà anche il closing, non so se le due cose sono collegate. Ti voglio anche segnalare, guarda, faccio ancora previsioni più avanti per farti gli auguri. Mercoledì prossimo daremo un volume, un intero instant book dedicato al condominio. Ed è di mercoledì, non di martedì. Infatti, attenzione, lo so, purtroppo abbiamo voluto sorprendere così i nostri abituali lettori del martedì, lo daremo di mercoledì. E poi c'è un'intervista molto interessante al ministro Delrio sul rapporto Italia-UE, ma anche sugli investimenti per quanto riguarda le infrastrutture, e quindi tra le altre cose riferisce il ministro a Giorgio Santilli che avremo diversi stanziamenti per rinnovare ad esempio gli autobus e i treni, sai che i pendolari spesso si lamentano e sono anche tuoi ascoltatori. Giorgio Santilli, un'intervista direi da meditazione oggi a pagina 9 del Sole 24 Ore. Guarda, non voglio rubarti altro tempo, parliamo anche ovviamente della legge di bilancio che sta prendendo corpo, tra l'altro i medici non ne sono entusiasti e già annunciano uno sciopero per il 28 di novembre. Lo trovi sempre a pagina 9. Altro non ti posso dire. Se non naturalmente accetto. Accetto i tuoi auguri, e per tutti gli altri invece, per gli ascoltatori, a questo punto, buona domenica e traffico! Alessandro Milan, il giornalista più titolato piano, del mondo! Piano, piano, Peter, piano, abbassa, piano, piano, piano, piano, piano. Vabbè, finirà 2-1. 1899 è la data che tengo a memoria. Ma piano, basta, basta, basta, basta, profilo basso. Allora, devo concludere. Per quel che riguarda la carrellata sulla politica, c'è stata la prima condanna a Nicola Cosentino, ve lo ricordate, sottosegretario all'economia sotto il governo Berlusconi, è stato condannato a 9 anni in primo grado per associazione esterna alla mafia. Nicola Cosentino, politico che rivestì questo incarico, è stato di sottosegretario all'economia, appunto, è stato referente politico della Camorra Casalese, così come scrive Fulvio Buffi sul Corriere della Sera, si può sintetizzare la motivazione, ci sarà entro 90 giorni, ma così si può sintetizzare la sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere. Con appunto i 9 anni di carcere a Santa Maria Capua Vetere per Cosentino. E beh, sicuramente una sentenza certo di primo grado, ma molto molto dura. Si parla molto dell'America, ovviamente, e la prima immagine di Hillary Clinton che si è presentata con il viso segnato, notano tutti i giornali, la tentazione, come ha detto lei stessa, di non uscire più di casa, pensavo di rannicchiarmi con libri e cani e stare qui. Questa è la frase che ha detto. C'è da dire che una cosa che non mi piace molto del giorno, che lo ha fatto e lo metto a pagina 2, è proprio mettere la foto di Hillary Clinton. Questo sì si può dire nei confronti di un uomo non verrebbe fatto, un uomo che fa politica, nei confronti di una donna è un po' sgradevole. C'è la foto a quasi tutta pagina, pagina 2 di Hillary Clinton, con, guardate qui, capelli spettinati e sporchi, capillari rotti, mani secche, dimagrita, borse sotto gli occhi, niente trucco, insomma la foto prima e dopo il voto. Non di bellissimo gusto, questa che ho trovato a pagina 2 del giorno, però è un modo per dire che Hillary Clinton ha subito molto il colpo. Vi segnalo invece dalla Verità questo articolo con richiamo in prima pagina. Il titolo di prima pagina è brutale ed è questo, riguarda la Rai. In Rai gli appalti sono fatti in modo privato, gli appalti privati della TV pubblica, questo è il titolo della Verità di prima pagina. Si racconta poi con tanto di racconto stile giallo, perché Carlo Piano racconta a pagina 3 della Verità: abbiamo recuperato dei fogli dimenticati in una fotocopiatrice nella redazione Televideo a Saxa Rubra, evidentemente lasciati da un dirigente che ha stampato ma li ha lasciati lì. E in questi, da questo scambio di email tra un dirigente Rai e uno che offre il servizio del bollettino neve per il televideo, si evince che altro che bandi e concorsi pubblici, la Rai firma contratti con l'emoticon, perché è uno scambio di email, come dire, come va, dai, vogliamo farlo noi anche quest'anno, il bollettino della neve, ma sì, ti scrivo dalle piste innevate. Insomma, la Verità scova le prove che a Saxa Rubra l'appalto è stato deciso tramite un amichevole scambio di mail tra un alto funzionario di televideo e il manager di un'azienda privata che scrive dalle piste innevate. Invece bisognerebbe fare concorsi pubblici, bandi, direttive europee da rispettare, ma che ce frega, ma che ce importa, sembrano dire alla Rai. Così la Verità racconta a pagina 3 con richiamo in prima pagina. Una buona notizia è questa, invece la trovo, se no vi lascio al venerdì con troppa depressione. Franco Giubilei racconta sulla Stampa, pagina 13, il grande progetto italiano per portare l'acqua nella striscia di Gaza. E dunque un nuovo acquedotto che rifornirà 2 milioni di persone che oggi dipendono dai pozzi è una grande opera di ingegneria che ha il marchio italiano. Lo faccio vedere anche in diretta sulla pagina Facebook. è firmata da Lotti Ingegneria di Roma e AI Engineering di Torino e porteranno l'acqua potabile nella striscia di Gaza. La Stampa lo racconta in un'intera pagina. Ma siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina, siamo sempre sulla Verità, dove uno scienziato russo, si chiama Alexander Trofimov, racconta di aver inventato una macchina che può viaggiare nel tempo, può far prevedere i terremoti. Lui dice, ne anticipai uno a San Francisco, può far viaggiare le persone nel cosmo attraverso gli specchi di Kozirev, può far entrare in contatto con gli alieni. Un'intera pagina di intervista fatta da Alessandro Milan. Ma Alessandro Milan? Ma chi se ne frega!